Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Forse siamo più buoni di quanto pensavamo, ma lo sapremo fra poco. Buonasera a tutti e a tutte, benvenuti a Mebius e sentiamo i titoli di questa puntata. L'ingiustizia è un sentimento innato. Un esperimento di neuroscienze confermerebbe che l'etica prevale sull'interesse personale. La storia dei coniugi Kellogg che nel 1930 allevarono uno scimpanzé insieme a Donald, il loro bambino. Facciamo luce. Due diverse ricerche ci parlano di luce, ma superfluida, e di Helios, lampada robotica. Malesseri spaziali ed equipaggi affiatati. Ce ne parla Pamela Ann Melroy, astronauta e capitano della missione Shuttle, che portò in orbita anche l'italiano Nespoli. Mine anti-uomo. Una pianta può individuarle cambiando colore e con un analogo meccanismo può anche segnalarci la presenza di parassiti. 150 anni fa nasceva la Zanichelli, che oggi è la più vecchia casa editrice scientifica italiana. Ha pubblicato Darwin, Einstein, Fermi e alcuni dei più importanti testi scolastici. Una nota di ottimismo questa sera, anche se parlare di ottimismo quando si parla di soldi, di affari, di business in questi mesi e si vuole dire che in fondo c'è eticità, c'è bontà, insomma si prende veramente un buon rischio, però ascoltatemi, seguitemi e vedrete che le cose che vi ho detto sono abbastanza coerenti, insomma ci stanno. È nostra ospite Claudia Civai, buonasera Civai. Buonasera, buonasera a lei. Giovanissima ricercatrice, dottoranda presso il settore di neuroscienze cognitive della SISSA di Trieste. Allora Civai, quando noi parliamo di esperimenti che riguardano i comportamenti mentali, cerchiamo sempre di costruire l'ambiente, la situazione, l'esperimento che avete fatto. E noi incominciamo anche questa sera con lei in questo modo. Allora, avete preso un certo numero di persone e li avete poste di fronte a una domanda precisa, un'offerta precisa. Di che si tratta? Esattamente. Allora, abbiamo preso per la precisione 40 persone gli abbiamo chiesto di accettare o rifiutare delle offerte che gli venivano fatte da, diciamo, altri giocatori. Questo era quello che loro credevano. Quindi gli veniva chiesto accetti o rifiuti, ad esempio, 2 euro su 10. Dovevano accettare o rifiutare questa offerta, sapendo che accettando i soldi sarebbero stati spartiti 2 euro a loro, 8 euro al loro avversario che faceva l'offerta. Se invece rifiutavano, nessuno dei due avrebbe preso niente. Insomma, queste, quindi c'è una specie del gioco di affare da fare, però è un affare un po' singolare perché o ci stanno tutti o non va in porto. No? Esattamente, esattamente, è proprio un prendere o lasciare. Però in fondo, voglio dire, uno non ha niente, gli arriverebbero comunque 2 euro o 2.000, no? A seconda della cifra. Esatto, gli arriverebbero comunque dei soldi. E invece voi che cosa avete verificato? Sì, esatto, secondo quindi la teoria classica non avrebbe senso rifiutare in questo caso, perché appunto anche 1 euro o 2 euro sono meglio di 0. Invece noi abbiamo verificato, come molti altri studi prima di noi avevano fatto, che le persone tendono a rifiutare le offerte non eque, quindi tendono a rifiutare 1 o 2 euro su 10. Lo trovano ingiusto e dicono di no. Esattamente. Anche se comunque qualcosa avrebbero portato a casa. Lei diceva poco fa, e si fa sempre così quando si fanno le ricerche, bene o male questo dato era stato verificato anche altre volte, però voi giustamente avete rifatto l'esperimento, perché a questo punto nel vostro esperimento con il vostro gruppo si aggiunge qualcosa, no? Cioè si passa un secondo passaggio. Qual è? Esatto, quindi noi nel nostro esperimento abbiamo aggiunto una condizione, cioè abbiamo chiesto ai nostri partecipanti di accettare queste offerte in alcuni casi per loro stessi, cioè in alcuni casi casi le offerte venivano rivolte a loro e loro dovevano accettare o rifiutare per loro stessi. In altri casi le offerte venivano rivolte ad una terza persona, a loro sconosciuta, e loro dovevano accettare o rifiutare per conto di questa terza persona. Un po' come se fossero degli agenti, insomma. Esatto, perfettamente. Dei procuratori. Questa era la logica, esattamente. Quindi non coinvolti personalmente. Le loro tasche non erano coinvolte, diciamo, il loro portafoglio non era coinvolto in questa situazione. A questo punto si potrebbe dire, non erano coinvolti, quindi a maggior ragione, siccome c'è convenienza e possono procurare dei soldi a qualcun altro, dicono di sì. E invece? Invece abbiamo visto che il comportamento dei nostri partecipanti non cambiava, cioè anche quando dovevano prendere delle decisioni per conto di una terza persona, rifiutavano comunque le offerte non eque, si comportavano esattamente nella stessa maniera, quindi. Quindi con una dimensione quasi sociale, no? Cioè a priori sono di fronte a un'ingiustizia. Esatto. Lì voi avete provato a testare in che modo questa scelta era, come dire, generata da fattori emotivi, razionali. Esatto, era questo che interessava a noi, cioè andare a capire il livello di coinvolgimento emotivo in questo diciamo comportamento, in questo rifiuto. Come si fa a misurare l'emotività? Dunque noi abbiamo utilizzato una tecnica appunto molto, molto usata che è quella della misurazione della risposta di conduttanza cutanea, che è quella che appunto anche nei film viene chiamata tipo macchina del la verità, che serve per andare in realtà a vedere il livello di attivazione generale dell'organismo e che a noi serviva nel nostro caso per andare a vedere quanto fossero arrabbiati, diciamo così, i nostri partecipanti nell'una o nell'altra condizione. Chiarissimo. E cosa è venuto fuori? Dunque, è venuto fuori che in effetti quando i partecipanti giocavano per loro stessi soprattutto quando rifiutavano l'offerta per loro stessi, erano emotivamente attivati, quindi erano arrabbiati. Mentre quando rifiutavano, perché per comunque rifiutavano per gli altri, non erano arrabbiati, cioè comunque non erano emotivamente attivati e sostenevano di essere, ma sì, arrabbiati, ma non poi così tanto. Il che sembrerebbe dire che quella scelta etica, chiamiamola così per semplicità, è ancora più forte, sì, più sedimentata, no? Perché non c'è emozione, io razionalmente dico non va bene questa cosa. Esatto, perché appunto significa che questo rifiuto non è irrazionale come si pensava appunto finora, bensì ha una base di razionalità, quindi è proprio è probabilmente guidato da un principio cognitivo piuttosto che da una reazione emotiva, sì. Un principio cognitivo che va in qualche modo a scontrarsi con un altro principio cognitivo che è quello di massimizzazione del guadagno, che è proprio delle teorie economiche. Mi pare che di questi tempi non tutti siano stati così disinteressati, no. Però sembrerebbe che la gente... Si parla di grandi numeri, vabbè. Speriamo nella... esatto, che, nei grandi numeri. Che il dato diffuso è quello che voi avete misurato. Claudia, esatto. Ci vai, buonasera, grazie e grazie buona ricerca. Grazie a lei, grazie a tutti. Si avvicina Natale, vi consiglio Elefanti in acido, non è una ricetta per il cenone, è il titolo di un libro uscito quest'anno, raccoglie una lunga serie di esperimenti folli, definirli scientifici è decisamente azzardato, a volte però sono esperimenti fatti in veri laboratori da, ecco, magari un po' meno veri scienziati, ma insomma è fuori di testa, li abbiamo sempre da tutte le parti. E quindi c'è anche stato chi ha provato a iniettare dosi di acido LSD, droga potentissima, in un elefante, con esiti spettacolarmente, ahimè, letali per il povero pachiderma. Elefanti in acido, quindi, edito da Baldini e Castoldi, da là, e scritto dallo storico della scienza americano Alex Böse, e da questo libro proviene la storia che Chiara Albicocco vi racconta ora, la storia di Winthorpe, Luella, Donald e Gua. Siamo nel 1930, anno molto simile a quello che stiamo vivendo. In tutto il mondo gli effetti del crollo in borsa del 1929 si fanno sentire pesantemente. Ogni giorno centinaia di aziende chiudono in tutta Europa e negli Stati Uniti, lasciando a casa milioni di lavoratori. È quindi singolare che in un tale clima sia possibile trovare una famigliola, americana per la precisione, che si pone il seguente interrogativo. Cosa può succedere se insieme al nostro piccolo Donald di un anno alleviamo uno scimpanzé della stessa età? Stiamo per parlarvi dei coniugi Kellogg. Lui si chiama Winthorpe e lei si chiama Luella. Entrambi erano giovani e Winthorpe aveva appena ultimati i suoi studi di psicologia. L'idea di allevare uno scimpanzé gli era già venuta quando era studente. Nel 1930, novello sposo, va in cerca di una strategia per realizzarla e nel 1931 riesce ad ottenere una borsa di studio da un fondo che finanzia ricerche nel campo delle scienze sociali e contemporaneamente la stazione per la sperimentazione sugli antropoidi di Orange Park si dichiara disponibile a fornire alla famigliola uno scimpanzé femmina. Il 26 giugno del 1931, Winthorpe, Luella, il piccolo Donald e Gua, questo è il nome della scimmietta, vanno a vivere nella stessa casa. L'obiettivo dell'esperimento è scoprire che cosa accade trattando Gua come la sorellina di Donald. Quindi bagnetto per tutti e due ogni giorno, pannolini da cambiare, pasti a tavola su seggiolone e con le posate, dormire in lettini vicini e un sacco di giocattoli per entrambi. Nell'arco di poche settimane fra Gua e Donald si stabilisce un rapporto fortissimo. Stanno sempre insieme e in particolare Gua ama molto baciare Donald. Winthorpe mette in campo alcuni esperimenti. Per esempio vuole verificare quali differenze ci siano tra Gua e Donald nella capacità di localizzare da dove provengono i suoni. Questo esperimento consisteva nel mettere un cappuccio in testa ai due piccoli in modo che non vedessero più nulla intorno a loro. Dopodiché Winthorpe e Luella emettevano dei suoni in vari punti della stanza con dei campanelli, dei tamburelli e osservavano quanto rapidamente Donald e Gua individuassero la provenienza di questi suoni. Nell'esercizio risultava sempre più abile e di gran lunga lo scimpanzé. E questo non doveva essere sorprendente perché tutti gli animali hanno uno sviluppo più rapido nell'apprendere le relazioni con l'ambiente. Il signor Winthorpe tentò anche di insegnare a Gua la pronuncia di qualche parola fondamentale, come si fa sempre con i bambini piccoli. Di papà, papà. No, mi pare che non ci siamo. Gua imparò anche a usare il cucchiaio e anche qui, come si fa di solito, buona pappa, prendi cucchiaino, prima la mamma e poi a Gua. No, prima la mamma e poi Gua. Ecco, tentarono anche di insegnare a Gua qualche gestualità tipica dei piccoli umani. Per esempio quella ben nota del batti batti le manine quando ricevevano un regalo oppure quando dovevano esprimere una generica contentezza. Ecco, la femmina di scimpanzé manifestò il più totale disinteresse verso queste gestualità, mentre Donald le imparò al volo. Passarono circa 9 mesi e a quel punto entrambi i piccoli avevano quasi 2 anni. Non c'erano progressi umanizzanti, definiamoli così, nel comportamento di Gua. Aveva solo imparato un verso per manifestare la richiesta di cibo. In un giorno del marzo del 1932, il piccolo Donald, affamato, espresse la seguente esigenza e nel seguente modo. Il giorno dopo i coniugi Kellogg riportarono Gua al centro primati di Orange Park. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Quando abbiamo fatto la riunione di redazione per questa puntata abbiamo detto va bene, la seconda parte della trasmissione è tutta sulla luce. E infatti vi parleremo ora di 2 ricerche che hanno a che fare con la luce. Inizia Maurizio Melis raccontandovi di luce superfluida. Sì, lo so, già la definizione è strana, ma ascoltate e vedrete che ci può stare. anche la luce può essere fluida, anzi superfluida. La notizia è apparsa recentemente su Nature Physics ed è particolarmente interessante per l'impatto che potrebbe avere in futuro in campo tecnologico, anche se per ora siamo solo all'inizio ed è facile fare previsioni azzardate. Tuttavia una cosa è certa, fino a 5 anni fa la luce superfluida non compariva nemmeno nel libro delle stranezze che popolano l'immaginario dei fisici. Fu allora infatti che venne prevista teoricamente per la prima volta da Jacopo Carusotto, ricercatore del centro Beck CNR e Università di Trento, e da Cristiano Ciuti dell'Università di Paris Sept. Ora invece è stata osservata questa luce superfluida grazie alla ulteriore collaborazione del gruppo sperimentale guidato da Alberto Bramati ed Elisabeth Giacobino presso il laboratoire Kastler Brussel dell'Università Parisi. Ci facciamo spiegare tutto da Jacopo Carusotto, che è appunto in linea con noi. Buonasera Carusotto. Buonasera. Senta, allora provi a spiegarci un po' che cos'è questa forma inattesa che può assumere la luce. Beh, praticamente questa idea ci è venuta pensando al comportamento dell'elio superfluido, che è un liquido che a temperature molto basse, dell'ordine di qualche Kelvin, passa ad uno stato in cui è capace di scorrere senza alcun attrito attraverso tubi o attraverso qualunque orifizio. In analogia con questo abbiamo pensato se fosse possibile ripetere lo stesso tipo di osservare lo stesso tipo di comportamento con un altro tipo di particelle che normalmente non vengono viste come un fluido, cioè i fotoni che costituiscono un fascio luminoso. Okay. Cioè praticamente l'idea è di trovare un mezzo in modo che i fotoni possano interagire tra loro e in modo da rendere robusto uno stato in cui tutti i fotoni si muovono nella stessa direzione e non vedono eventuali difetti nel proprio cammino. Quindi diciamo che rispetto a un fascio di luce normale in cui le particelle di luce, chiamiamole così, quindi i fotoni, sono un po' come una rosa di pallini sparate da un fucile, in questo caso i pallini sono collegati, mettiamola così, da degli elastici che in qualche modo li mantengono insieme anche se incontrano degli ostacoli. Sì, questa diciamo è una buona immagine. Uno può anche pensare a un gregge di pecore che sta camminando tutto assieme e nel momento che c'è una pecorella che decide di svoltare, questo viene impedito dal resto del gregge che la trascina nella stessa direzione di tutti. E questo è più o meno quanto succede ai fotoni. Dentro quando incontrano un difetto non riescono a rimbalzare perché vengono trasportati dal resto della massa del fluido. Esatto, come un po' un fluido quando aggira un qualunque ostacolo. Ecco, questo effetto della luce superfluida non è una caratteristica solo del fascio di luce, ma è una caratteristica che emerge dall'interazione con dei materiali ben precisi, se ho capito bene. Assolutamente sì, il materiale è indispensabile, in quanto i fotoni nel vuoto si possono considerare come non interagenti. A causa proprio della presenza del materiale, i fotoni iniziano a comportarsi in maniera collettiva, cioè a voler andare tutti assieme. Si stabiliscono proprio dei legami. Delle interazioni. E queste interazioni, un fenomeno di natura quantistica, sono tali che non è possibile a un singolo fotone di abbandonare il gregge. Ecco, voi avete osservato questo effetto sull'arseniuro di gallio, che è un semiconduttore che viene utilizzato abbastanza normalmente nell'industria dell'elettronica. Ci sono altri materiali che potrebbero avere queste proprietà? I materiali sono una grande classe, c'è tutta una classe di materiali che presenta, in gergo tecnico si chiama una non linearità ottica. Abbiamo scelto l'arseniuro di gallio giusto per facilità di lavorazione. Quindi questo fenomeno potrebbe essere osservato in altri semiconduttori o anche in cristalli normali, in vetri speciali. Quindi c'è una buona classe di materiali in cui si può pensare di osservare questo genere di fisica. L'interesse è che uno se riesce a osservare in un materiale di uso tecnologico come l'arseniuro di gallio può avere delle prospettive di applicazioni all'elaborazione ottica dell'informazione. Ecco, perché una cosa che non abbiamo forse detto è che il fatto che questa luce viaggi in questo modo impedisce che un fascio luminoso si disperda, cosa che invece normalmente accade. Se lei pensa, quando lei è in macchina e sta attraversando un banco di nebbia, certo, la luce dei fari delle macchine che arrivano nella direzione opposta praticamente viene diffusa dalle gocce d'acqua. Certo, viene un muro bianco. Se invece uno avesse periodi di potenza dei fari che sparano luce superfluida, uno vedrebbe questa luce che viene direttamente agli occhi, come se non ci fosse niente in mezzo. Per cui uno può pensare di spedire un impulso di questa luce particolarmente compatta, coerente, e questo non perde di potenza viaggiando attraverso, immaginiamo, una lunga fibra ottica di arsenuro di gallio, per esempio. Assolutamente, questa è senz'altro una delle caratteristiche più interessanti di questo fenomeno, che permette a pacchetti di attraversare un materiale e non essere sensibili a tutte le imperfezioni che uno inevitabilmente ha. E questo potrebbe avere appunto delle ricadute sulla robustezza dell'elaborazione ottica dell'informazione. Ci sono altri ambiti oltre a questo, diciamo, dell'elettronica o dell'optoelettronica? Diciamo, noi tutti e tre siamo gruppi di fisica fondamentale, per cui il nostro interesse è a utilizzare la luce come un esempio di fluido e vedere come l'idrodinamica quantistica standard può estendersi a questo genere di sistemi nuovi, giusto la curiosità scientifica. E lasciate, insomma, ad altri il compito di trovare le applicazioni. Diciamo sì, il nostro... siamo più che altro giocherelloni. Va bene, allora buon divertimento, Carusotto. Grazie tantissime. Arrivederci. Helios, ovvero sole, la luce per antonomasia. Quindi, Helios è un robot e voi gli dite dove volete la luce. Come? Ve lo spiega Chiara Albicocco. Un po' lampada e un po' robot. Si chiama Helios ed è un'innovativa trovata dell'Alta Scuola Politecnica. Di lampade che si accendevano con un battito di mani ne avevamo già sentito parlare, ma della possibilità di aumentare l'intensità del fascio luminoso e di spostarne anche la direzione ne eravamo ancora all'oscuro. Bene, il responsabile di questo progetto ad alta tecnologia è Andrea Bonarini, che è ingegnere elettronico del Politecnico di Milano ed è anche responsabile del laboratorio di intelligenza artificiale e robotica, sempre del Politecnico. È qui con noi questa sera per raccontarci come funziona Helios. Benvenuto Bonarini. Buonasera. Dunque adesso ci deve raccontare come fa Helios a spostare il fascio di luce e a variarne addirittura l'intensità senza che le nostre mani tocchino la lampada. La lampada sostanzialmente è dotata di sensori, ci sono dei sensori di prossimità che servono per rilevare la presenza di vicinanza, diciamo, delle mani, e una telecamera molto piccola, di quelle che si usano anche nei telefoni cellulari, per andare a fare un'analisi dell'immagine che sta sotto la lampada. Così, con dei gesti che vengono fatti dove la lampada manda la propria luce, si può indicare alla lampada di allargare il fascio luminoso piuttosto che di spostarlo, piuttosto che farle seguire un qualche posizione che dove si vuole avere la luce. Allora proviamo, facciamo finta di entrare in una stanza, che succede al buio? Dunque, questa lampada intanto è una lampada da tavolo, abbiamo fatto una scelta precisa per motivi anche pratici di organizzazione della cosa, quindi in realtà non tanto entriamo in una stanza quanto siamo su una scrivania, su un tavolo, a questo punto magari stiamo lavorando con la nostra lampada da tavolo, lo stiamo leggendo, a un certo punto ci serve cercare qualcosa sul tavolo, semplicemente allarghiamo le mani e con questo il fascio di luce si allarga. Poi magari ci spostiamo perché ci voltiamo, abbiamo il calcolatore dietro e indichiamo la lampada di spostarsi senza toccarla e questo si sposta, perché è dotata di motori che servono per muovere sia la lampada che per cambiare la forma del fascio luminoso. Questa è l'applicazione, diciamo, casalinga. Poi abbiamo pensato che potesse essere utile questo tipo di funzionalità anche per applicazioni dove si può muovere la luce, quindi vogliamo muovere la luce, interagire con la luce, ma non possiamo toccarla, quindi ad esempio in ambito medico, anche in officina, se uno dovesse avere in officina e ha le mani sporche, non vuole toccare lampade, può... Certo, spostare anche la luce della lampada semplicemente facendo dei gesti, insomma. Per ci gli sono ambienti tantissime applicazioni che devono rimanere sterili, ecco, sì, certo. Anche, certo. Ecco, avete anche pensato a possibili applicazioni rivolte a chi magari ha scarsa possibilità di movimento, che so, gli anziani oppure i portatori di handicap o semplicemente uno che si è rotto una gamba, insomma. Ma sostanzialmente questa serve, diciamo, si può comandare questa lampada facendo dei gesti, quindi dei gesti bisogna farli, sono dei gesti con le mani, però diciamo i gesti con le mani vanno fatti. Ovviamente il gesto non richiede di andare a raggiungere un interruttore o spostare elementi, quindi sicuramente è un gesto molto più semplice da fare che non un gesto diciamo, tradizionale. Senta, che aspetto ha Helios? Cioè, sembra un robot o può abbinarsi sobriamente al mio salotto di casa? Assolutamente, sembra una lampada, è una lampada con un design molto essenziale e pulito, e uno degli scopi era proprio questo, cioè avere un oggetto che sembrasse la lampada e le cui funzionalità robotiche fossero più una sorpresa che altro, quindi con una lampada che sembra una lampada in realtà ci ritroviamo ad avere un robot che in linea di massima può fare anche delle attività autonome, possiamo avere una funzionalità in cui, diciamo, fai giochi di luce e questa incomincia a muoversi a fare giochi di luce. Ecco, questo è importante, sottolineiamo che infatti nel vostro team, oltre ad esserci degli ingegneri, ci sono anche dei designer. Sì, sì, certamente, è un team che nasce da una collaborazione tra diverse tipologie di persone che si sono laureate tra il Politecnico di Milano e il Politecnico di Torino nell'ambito di questa iniziativa che è l'Alta Scuola Politecnica, e lo scopo dell'iniziativa è proprio quello di creare dei team multidisciplinari e offrire la possibilità di realizzare dei progetti sfruttando questa interdisciplinarità, quindi ognuno ha messo del suo, quindi il meccanico ha pensato a come far muovere il robot, l'elettronico a come gestirlo, l'informatico a come interpretare le immagini e il designer a dare una forma adeguata alla lampada. L'oggetto è già stato brevettato o qualcuno in ascolto potrebbe rubare l'idea? L'oggetto, diciamo, la domanda di brevetto è stata depositata, quindi in questo momento stiamo attendendo la risposta dell'ufficio brevetti, è stata depositata appunto con l'appoggio dell'ufficio brevetti del Politecnico di Milano, quindi abbiamo buone speranze che comunque il brevetto sia accettato. Bene, possiamo fare un'ipotesi di quando potremmo trovarlo in commercio? Questo dipende anche dalle entità che saranno interessate e disponibili a commercializzarlo, quindi il prodotto nasce come un appunto prodotto da questa alta scuola politecnica, di fatto c'è un prototipo, a questo punto siamo alla ricerca di qualcuno che sia interessato alla commercializzazione dell'oggetto. Concludiamo dicendo quanto potrebbe costare un oggetto così comodo di questo genere? Ma l'obiettivo era di tenere un prezzo che potesse essere non troppo lontano da quello delle lampade di design, quindi lampade intorno ai 300 euro, una cosa di questo tipo. Grazie Bonarini e buonasera. Grazie mille. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Siamo al nostro gioco, vi tocca ascoltare il quiz e indovinare. Bultorides striatus si chiama, è una specie di uccelli simile alle cicogne con le quali sono anche geneticamente imparentati e vivono in Giappone. Per catturare i pesci di cui si cibano hanno escogitato questi uccelli un sistema molto intelligente. Quale? Prima possibilità, poiché i Bultorides sono di colore bianco e quindi molto visibili da un pesce che sta sott'acqua, loro hanno imparato a sporcarsi di terra grigia bagnata rendendosi meno visibili appunto. Ci scriverete terra. Seconda possibilità, i Bultorides, che mangiano un po' di tutto, hanno imparato a buttare in acqua dei pezzettini di loro pasti precedenti, pane, insetti, frutta, i pesci vengono a galla per cibarsene e loro li beccano al volo. Ci scriverete beccano. Terza e ultima possibilità, i nostri uccelli giapponesi hanno semplicemente capito che è meglio cacciare di notte, quando la luce non può più inviare la loro immagine ai pesci, e ci scriverete notte. Lo scriverete con un SMS al solito numero 349-238-6666 e il libro che si vince in quest'anno, che ormai ne abbiamo parlato spesse volte, è dedicato a Darwin, è il classico dei classici. Le edizioni Burr hanno pubblicato L'origine delle specie di Charles Darwin. In collaborazione con IBS.it. C'è un certo dibattito sulle missioni spaziali di questi tempi, si parla di Marte, di tornare sulla Luna e poi arrivano anche molte novità su come dovrebbero essere i nuovi veicoli spaziali. Barbara Gallavotti ha intervistato Pamela Ann Melroy, una signora che nella vita guida lo shuttle. Quante donne hanno studiato il cielo? Moltissime. Forse possiamo ricordarne una sola, Ipazia, la grande scienziata di Alessandria d'Egitto, vissuta alla fine del III secolo d.C. Ipazia è un po' considerata una martire della scienza, perché fu linciata da un gruppo di monaci cristiani in un momento di drammatica opposizione tra la nuova cultura e quella greco-ellenistica che apparteneva a Ipazia. Fortunatamente oggi le donne che studiano il cielo, di solito, possono godersi una vita stimolante e ricca di soddisfazioni. Recentemente poi si sono incontrate in un bellissimo convegno dal titolo Donne e Spazio, organizzato presso l'Accademia dei Lincei da quattro spumeggianti scienziate italiane: Velleda Baldoni, Alessandra Celletti, Elisabetta Strickland e Angioletta Coradini. All'incontro era presente anche Pamela Ann Mellory, l'astronauta della NASA che ha capitanato la missione dello Shuttle, a cui nel 2007 ha partecipato anche l'italiano Paolo Nespoli. E noi l'abbiamo incontrata chiedendole in primo luogo, ovviamente, qual è la cosa più eccitante del trovarsi nello spazio. A mio avviso è vedere la Terra da fuori. È veramente diverso vederla da quella prospettiva. Ti dà davvero l'impressione di essere lontano da casa. Sembra banale, ma uno dei problemi che dovete affrontare nello spazio è quello di condividere spazi ristretti. In quanto capitano, come ha fatto ad abituare a questo il suo equipaggio? Ci siamo allenati facendo campeggio insieme. È un modo per imparare tutto ciò che occorre sapere gli uni sugli altri. Ci siamo abituati a cucinare insieme e a dividere gli spazi vitali, così da lasciare a ciascuno i suoi momenti di tranquillità per rilassarsi nel sacco a pelo. Così si impara davvero a vivere come in una famiglia. E di quanti giorni avete avuto bisogno? Abbiamo pensato fossero necessari almeno 10 giorni di campeggio, considerando che una missione dello shuttle dura in genere dai 10 giorni alle 2 settimane e che in questo tempo si può capire tutto quello che realmente serve di sapere gli uni degli altri. A proposito della stazione spaziale, c'è un certo dibattito a proposito della sua utilità. Tutti sono d'accordo sul fatto che è stata senza dubbio un successo sul piano della collaborazione internazionale, perché è stata un'impresa unificante in cui cittadini di molte parti del mondo hanno potuto riconoscersi. Però alcuni dubitano che ne sia valsa la pena dal punto di vista scientifico, cioè su ciò che ci possono insegnare gli esperimenti condotti sulla stazione rispetto all'investimento necessario per costruirla, che ricordiamo si aggira sui 100 miliardi di euro. Il problema principale credo sia che nessuna area scientifica è finanziata quanto ciascuno scienziato vorrebbe, inclusa me. E questo crea un atteggiamento complicato, perché se tu preferisci il tuo campo di ricerca, non ti sembrerà mai che sia finanziato abbastanza e di conseguenza sarai sempre critico verso i finanziamenti che vanno ad altri settori. È ovviamente una situazione sgradevole e l'unico modo per rimediare è avere più fondi nella ricerca spaziale in generale, così che ognuno non si debba sentire in competizione con gli altri campi, ma possa anzi sentirsi fiero anche degli avanzamenti altrui. Beh, insomma, non potranno mai esserci abbastanza fondi per finanziare tutti coloro che vorrebbero fare ricerca nello spazio. Anzi, addirittura sappiamo che al momento attuale sembra non esserci neppure la certezza che dopo il termine delle missioni con lo shuttle prevista per il 2010, la NASA avrà abbastanza fondi da far partire come previsto un nuovo programma spaziale, quello che si chiama Constellation. In effetti siamo molto preoccupati. Certo, ogni cosa ha un costo. Non si può comprare una casa con 100 euro e anche andare nello spazio costa. Quando parlo con persone che non sono nel campo, scopro che loro immaginano che il programma spaziale statunitense sia il 10 o il 20% del bilancio dello Stato. Invece è meno dello 0,5%. Il contribuente americano spende ogni anno più soldi in pizza che nel programma spaziale. Bisogna mettere ogni cosa nella giusta prospettiva e speriamo che il nuovo presidente Obama e la nuova amministrazione capiscano il problema e continuino a finanziarci. Perché andare nello spazio non serve solo a fare scienza, ma anche ad ispirare i nostri studenti a studiare scienza e diventare ingegneri, matematici o anche piloti. A proposito di piloti, lei ha una grossa esperienza a proposito, sia come pilota militare che come astronauta, e ha raccontato che il momento fisicamente più difficile di una missione spaziale è il rientro. Perché? Perché andare nello spazio è come mandare il proprio corpo in vacanza. Non c'è gravità, i muscoli non devono fare sforzo e neppure il cuore. Il corpo è molto rilassato. Tornare sulla Terra è proprio come tornare al lavoro dopo una vacanza. Per il corpo è dura. Per effetto della gravità ci si sente molto pesanti, rigidi. Qui sulla Terra abbiamo dottori e personale che ti aiutano a uscire dalla navetta, ma questa sensazione Sarà un grosso problema quando andremo su Marte per la prima volta. Chi aiuterà gli astronauti a uscire dalla navetta? Nessuno. Ed è un aspetto che dovremo risolvere prima di andare su Marte. Al BioForum, appuntamento annuale dedicato alle biotecnologie, un paio di settimane fa a Milano, si è parlato di biotecnologie avanzate nel campo dell'agricoltura e dell'uso e del trattamento delle piante in genere. Gian Attilio Sacchi, docente e ricercatore presso la Facoltà di Agraria dell'Università Statale di Milano, ha descritto due applicazioni molto diverse fra loro, ma molto interessanti, che riguardano le piante geneticamente modificate. La prima applicazione, pensate un po', riguarda le mine anti-uomo. A Sacchi ho chiesto di raccontarci di che si tratta. Il meccanismo non è conosciutissimo, nel senso che è un brevetto di una company danese, Aresa, e quindi sono conosciuti solamente, diciamo, i meccanismi, quelli più evidenti. Si basa semplicemente sul fatto che questa pianta è una pianta transgenica, è una pianta che riesce a percepire la presenza di un prodotto di degradazione del tritolo che è contenuto nelle mine e che riesce a trasformare l'informazione che gli arriva dalla presenza di questa molecola in un cambiamento del suo colore. C'è una pianta che normalmente è verde, quando entra in contatto con questo prodotto di degradazione, il diossido di azoto, che arriva dalla degradazione del tritolo, la cambia colore, diventa rossa, quindi seminando in un campo minato dove per un po' di tempo sono state sottoterra queste mine, esattamente intorno alla mina abbiamo questo anello di piante rosse. Chiaramente esistono dei problemi di sicurezza nel momento in cui questa pianta viene seminata e nel momento in cui questa pianta viene riconosciuta, no? Quando abbiamo il cambiamento di colore. Però Aresa sta lavorando in Serbia, sta lavorando in Croazia, sta lavorando in molti paesi africani dove abbiamo disseminato, no? Abbiamo nel senso di genere umano, abbiamo disseminato questi ordigni, sta lavorando in queste zone e sicuramente sta lavorando con dei sistemi di rilevamento a distanza, di rilevamento automatico in sicurezza, ma sembra che funzioni anche realmente in pratica. Perché, come lei ricordava nel suo intervento, il problema è che ormai i metal detector non funzionano sì, più, perché il vecchio metal detector sì, ancora funziona, perché probabilmente i magazzini delle industrie che producono queste ordigni sono ancora pieni di vecchie mine, quindi con l'involucro metallico e quindi facilmente e quindi rivelabile con il metal detector. Proprio per superare, no, questa facile rilevabilità sono state costruite invece delle mine con degli involucri che non sono più metallici. Questa pianta potrebbe darci una mano. Mediando sempre da un linguaggio un po' guerresco, ma che in questo caso invece è assolutamente positivo, parliamo di piante sentinella che già un po' conosciamo per quanto riguarda gli aspetti patologici delle piante, ma invece con le biotecnologie riusciamo ad avere delle cose nuove molto interessanti per quanto riguarda tutto quell'universo complesso dei fertilizzanti. Sì, questa può essere protezione, che possono essere delle malattie e delle piante. Sicuramente c'è questo vecchio esempio, no? I nostri viticoltori sanno benissimo che se all'inizio di un filare di vite pongono un rosetto, seminano delle rose, queste rose saranno in grado di segnalare le infezioni di peronospora, la presenza di questo fungo patogeno che danneggia fortemente la vite, con qualche giorno d'anticipo. Cioè, i sintomi di questo fungo si manifestano una settimana prima sulla rosa rispetto a quello che poi succederà sulla vite, e quindi qui si possono pianificare degli interventi con agrofarmaci, quindi stiamo parlando di pesticidi, però mirati solamente se necessari e solamente quando necessari. L'altro esempio molto importante di pianta sentinella è su un problema piuttosto scottante in termini sia economici ma in termini di sostenibilità delle produzioni agricole. Dei fertilizzanti che utilizziamo sono una piccola parte, se quella che effettivamente viene percepita dalla pianta ed è funzionale alla crescita della pianta, la grossa percentuale, diciamo dal 40 al 60%, lo rimane nel suolo, lo perdiamo, finisce in falda e quindi c'è crea dei problemi ambientali. Questo perché? Ma questo perché si fanno delle fertilizzazioni su base, molte volte su base empirica, si sa che quella dose ci ha dato un vantaggio, ma probabilmente delle dosi più basse potrebbero darci dei vantaggi. Allora l'idea della pianta sentinella è una pianta che sta in un campo e che mi segnala qual è il suo bisogno, cioè ho bisogno di un fertilizzante azotato, ne ho bisogno tanto, ne ho bisogno poco, allora a quel punto io posso decidere se dartene tanto, dartene poco, quando dartelo, quindi fare degli interventi molto più mirati e in questo modo si aumenta quella che definiamo l'efficienza d'uso del fertilizzante, quelle quote perse del 50-60% potrebbero diventare solamente del 20-30% e quindi potremo ridurre la dose totale di fertilizzante inserita. Questa è l'idea. Sentinella per l'ozono. No, noi sappiamo che ci sono sicuramente l'ozono, esistono due ozoni, no? L'ozono buono e quello cattivo. L'ozono buono è quello che ci protegge dalle radiazioni ultraviolette, quello cattivo è quello che troviamo vicino alla superficie terrestre, che danneggia le colture, e la presenza di ozono potrebbe essere monitorata ad esempio con delle piante sentinelle. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Siamo alla soluzione del quiz, il Butorides striatus, questo cicognoide giapponese che ha inventato un sistema un po' strano ma molto efficiente per mangiare i pesci. Allora, niente fango per sporcarsi, diventare un po' grigio e essere meno visto. Ve la vedete voi una cicogna che si sporca, elegante e raffinata com'è. Né cacce notturne, tra l'altro questo è un periodo durante il quale pure i pesci non vanno in giro, invece no. Il Butorides striatus ha imparato a usare le esche, butta dei pezzettini di pane, per esempio, i pesci vengono a galla e lui se li pappa. Questa era la risposta giusta. E ospite questa sera a Möbius, Federico Enriquez. Buonasera Enriquez. Buonasera. Un nome che appartiene alla storia dell'editoria in generale italiana, in particolare a quella scientifica, ma per molti aspetti direi anche all'editoria europea, perché Enriquez dobbiamo immediatamente collegarlo al nome probabilmente molto più noto della casa editrice Zanichelli, che è proprio di questi tempi sta compiendo 150 anni di vita. Il nome Zanichelli da dove esce? Esce da Nicola Zanichelli, che era un tipografo e libraio di Modena, che nel 1859 ha iniziato un'attività editoriale che qualche anno dopo ha trasferito a Bologna. Parliamo degli anni 60, di due secoli fa, cioè nel 1860. Esatto. Sono poche le case editrici che hanno quest'età, no? Direi. No, non credo molte, no. Ce ne sono però di più anziane, non dico vecchie, ma più anziane. La famiglia Enriquez invece quando incomincia a farsi vedere? Uno zio di mio padre acquistò la casa editrice nel 36, subito dopo la crisi, che c'erano state delle difficoltà, e poi l'ha lasciata a mio padre e alle sue sorelle. Poi, insomma, quindi mio padre ha cominciato a occuparsene nel 1946. Zanichelli, e quindi la vostra casa editrice, è certamente legata anche qui nello stesso anno a un grande fatto editoriale, che è la prima pubblicazione in Italia dell'Origine della specie di Darwin, no? Che è quando esattamente? Beh, quando era ancora Modena, nel 63 mi sembra, 1863-64, quattro o cinque anni dopo la pubblicazione originale in inglese, che invece del 1859. Ecco, ma nelle vostre memorie, insomma, nella vostra storia, che cosa significò allora? L'impatto fu grande, però non ebbe immediato seguito nella storia della casa editrice, che con l'inizio della collaborazione di Carducci, pochi anni dopo, si orientò di più verso la poesia e comunque le pubblicazioni di tipo umanistico. Più letterario, più umanistico. Quindi il ritorno di grande importanza delle opere scientifiche si ha a inizio secolo, negli anni 20, e poi in questo dopoguerra legato soprattutto all'editoria educativa. Ecco, andando appunto agli anni 20-30, il catalogo Zanichelli comincia a contenere dei personaggi fondamentali della ricerca scientifica, come Fermi, per esempio. Einstein, Fermi. Sono veramente i più grossi. Dei quali voi pubblicate che cosa? di Einstein pubblicando la relatività, la prima edizione italiana, di Fermi sia molecole e cristalli sia un corso scolastico che con vari rifacimenti è proseguito poi nel corso degli Amaldi. Insomma. Il testo di fisica così tanto diffuso Amaldi... Nasce da Fermi. Federigo Enriques in quegli anni, intorno al 1920-1930, frequenta direttamente anche questi scienziati, no? Sì, certo. Federico Enriques, che era mio nonno, era autore della Zanichelli, di libri soprattutto per le scuole fin dall'inizio secolo. Poi nel 22 si è trasferito a Roma e lì mantenne i contatti fra questi grandi scienziati romani, tra l'altro appunto Fermi, Volterra, Castelnuovo e la casa editrice. Siamo in settimane di Nobel, vedo che nel vostro catalogo c'è un bel numero di Nobel, insomma. È un po' più di 20 sono, ma soprattutto in campo scientifico, quando ci sono questi giorni dei premi Nobel, cioè gli editori di narrativa sperano sempre di avere nel loro catalogo il nuovo Nobel. Anche noi speriamo per i Nobel scientifici, una ventina ne abbiamo, ma soprattutto andiamo a vedere come le ricerche premiate dai Nobel sono trattate nei nostri libri, cioè certo. Se sono già trattate e come. Quello è un momento molto importante. Senta, a partire dal 1960, insomma dagli anni 60, la Zanichelli assume un ruolo, a mio parere, anche molto importante in quello che è il rinnovamento di tutto l'insegnamento delle materie scientifiche e in particolare della fisica. Ci sono alcuni testi vostri che portano in Italia delle rivoluzioni dal punto di vista della didattica. Sì, fondamentalmente i testi tradotti dall'americano PSCC, esatto, per la fisica, BSCS per la biologia, che avevano introdotto un insegnamento della scienza basata soprattutto sul laboratorio, sulla sperimentazione. Certo. E questo hanno lasciato una traccia che c'è tuttora nell'insegnamento. Sì, è proprio questo il passaggio fondamentale, cioè in un insegnamento che in Italia è ancora molto ottocentesco si inserisce con forza questo rapporto tra i contenuti e la sperimentazione, insomma il laboratorio. Certo. E ancora oggi voi siete impegnati in alcune sperimentazioni didattiche, insomma, cioè una frontiera che non lasciate mai. Non si può lasciare, perché poi è proprio sperimentando nuove cose che poi si riescono a migliorare anche i libri, diciamo, standard. Senta, è difficile fare l'editore di scienza in Italia? Mestiere è facile o difficile a seconda, cioè non credo che esistano mestieri facili e nemmeno mestieri difficili. Però, insomma, in questo momento è un po' pericoloso, che è un concetto diverso. Perché ci dice questo? In che senso è pericoloso? Con queste innovazioni legislative, con il blocco delle adozioni, con questo tipo di cose rende molto più aleatoria la nostra attività. Perché sarà bene ricordarlo, far quadrare i conti dei libri è sempre un'alchimia alquanto complessa. Bene Enriques, io la saluto, la ringrazio e le auguro altri 150 anni di casa editrice. Grazie a lei, buonasera, ci risentiamo fra 150 anni. Ecco, vediamo se ce la facciamo, sarebbe interessante dal punto di vista scientifico. Hanno dato il premio Nobel all'invecchiamento. Quindi... Ha ragione. Se riusciamo a prendere. Avete sentito poco fa un'intervista a un'astronauta americana, capitano dello Shuttle, e noi continuiamo sul tema spazio, sempre sul tema però anche donne, e sono in linea con Paola Rebusco. Ciao Paola. Ciao. Questa volta non ti raggiungo via Skype. E allora, proprio in questi ultimi giorni si è riusciti a ricostruire una storia che riguarda le donne nello spazio, quelle americane, che sembrava assolutamente sepolta. È veramente strana, comincia a raccontarla. Ma la nostra storia inizia però ai tempi della corsa spaziale, per cui negli anni 60-70, quando chiaramente il mondo era più dominato dagli uomini. E invece ci sono due uomini, un medico educato ad Harvard e un generale dell'Air Force americana, che decidono di provare a verificare se effettivamente le donne sono migliori degli uomini per i viaggi spaziali, da un punto di vista pratico, fisiologico. Allora, nel 58 viene fondata la NASA e nel 59 vengono selezionati i primi 7 astronauti, noti come equipaggio Mercury 7. Maschi. Ora, questo medico, William Lovelace, e il generale Donald Flickinger hanno deciso di stabilire all'interno dell'Air Force un programma che si chiama Woman in Space Earliest, la donna nello spazio per prima, e hanno iniziato a fare dei test. Certo, hanno preso un gruppo di donne e hanno deciso di fare passare gli stessi test che servivano per selezionare gli astronauti uomini. Prima di iniziare questi test, l'Air Force ha annunciato che il programma non poteva essere continuato, però Lovelace, il medico, ha deciso di fondare privatamente un nuovo programma, Woman in Space, la donna nello spazio. Ah, quindi l'avevano bloccato subito. L'avevano bloccato subito. Però ecco, tramite fondi privati sono riusciti lo stesso a portarli avanti, hanno preso i primi candidati ed è risultato che di tutte le donne che hanno fatto i test, il 68% ha passato i test senza nessun dubbio medico, a confronto del 56% degli uomini. E quindi ci sono le top astronaute, fanno parte di un nuovo gruppo che si chiama Mercury 13, sono 13 donne, a confronto del Mercury 7 degli uomini. Ora, e qui c'è un mistero. I dati collezionati in questo periodo non sono mai stati pubblicati e pare che fossero andati persi. Ah. E la grande novità di quest'anno, appunto pubblicata su un giornale di fisiologia, a settembre, e un collaboratore ha trovato questi dati, finalmente li ha analizzati ed effettivamente è saltato fuori che le donne sono migliori degli uomini. Sono stati recuperati i vecchi dati che appunto danno questa informazione. Quali sono appunto le differenze? Allora, le donne hanno delle capacità aerobiche comparabili, se non migliori, a quelli dei piloti uomini. Hanno bisogno di meno ossigeno degli uomini. Sì. Essendo più leggere, ed essendo più leggere c'è anche bisogno di meno carburante per mandarle in orbita. Banale. Poi ci sono altre cose che erano già note, però sono discusse, come il fatto che le donne hanno meno attacchi cardiaci degli uomini, il sistema riproduttivo è più protetto, per cui ci sono meno rischi con la radiazione, con i raggi cosmici. E poi ci sono dei dati preliminari per cui sembra che le donne siano migliori a resistere in posizioni rannicchiate, in spazi piccoli e anche in situazioni di isolamento prolungato. E in particolare questo articolo parla di una donna, Jerry Cobb, che ha dato delle prestazioni veramente eccezionali. Ha iniziato a volare all'età di 12 anni e aveva accumulato ai tempi 10.000 ore di volo contro le 5.100 di John Glenn, che era l'uomo con maggiori ore di volo. Il risultato è che era nel migliore 2% di tutti i candidati, sia uomini che donne. Ecco, è l'ultimo giorno dei test, quando è stata immersa in una tanica, isolata acusticamente e ripiena di acqua fredda, ha resistito per ben 9 ore, quando le altre centinaia di persone che hanno fatto questo test hanno resistito al massimo 6 ore prima di iniziare ad avere allucinazioni. Per cui veramente un individuo eccezionale. Ciao Paola. Ciao, buonasera a tutte e a tutti. La prossima volta dallo spazio, a questo punto. Proviamo. Ciao. Siamo alla conclusione della nostra puntata. È in corso il Festival della Scienza. Genova è appena iniziato, quindi lasciateci il tempo di raccogliere voci e suggestioni varie, e a partire dalla prossima settimana ve ne parliamo in lungo e in largo. La prossima settimana vi parleremo anche di cucina scientifica, così avverto tutti gli amanti delle gastronomie sperimentali. E adesso buona serata a tutti e a tutte.